La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole, anche questa settimana, è dedicato al volume In ricchezza e povertà, il benessere degli italiani dall'unità a oggi, edito da Il Mulino, di cui abbiamo discusso lo scorso sabato con il professor Giovanni Vecchi, di come è cresciuto il PIL italiano nel corso degli ultimi 150 anni. Oggi ci concentriamo sulle questioni sociali insieme a Gianni Toniolo, docente di storia economica alla Duke University e alla Lewis. Tratteremo della scomparsa del lavoro minorile e dell'irrisolta questione meridionale. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato ai motivi che portarono 500 anni fa l'Europa a sorpassare per prestigio e potere il fiorente impero cinese. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Sabato scorso abbiamo avviato con voi una sorta di viaggio nei progressi compiuti dal nostro paese negli ultimi 150 anni. Abbiamo messo in luce, in particolare, il dato che più di ogni altro fotografa il cammino compiuto dal nostro paese, pur tra mille contraddizioni e, come sappiamo, nel persistente grave divario che esiste ancora oggi tra il nord e il sud del paese. Il grande successo è l'aumento dell'aspettativa di vita. Oggi siamo attorno agli 82 anni, 150 anni fa l'aspettativa media era di 30 anni. Ora torniamo sull'argomento prendendo spunto nuovamente dal volume pubblicato dal Mulino In ricchezza e in povertà, il benessere degli italiani dall'unità e oggi, e focalizziamo la nostra attenzione su un altro aspetto non meno rilevante, vale a dire quello del lavoro minorile. I primi tentativi di elaborare una serie di norme per tutelare il lavoro minorile nell'Italia post-unitaria furono indirizzati a superare il problema della cosiddetta tratta dei fanciulli, fenomeno diffuso soprattutto nelle regioni meridionali. I bambini venivano ceduti dalle famiglie ai cosiddetti conduttori, che li trasferivano all'estero, li avviavano all'accattonaggio o impiegandoli come venditori ambulanti. Illuminante e tragica al tempo stesso è in proposito una storia descritta nel 1868 dal biografo di Garibaldi Giuseppe Guerzoni. A metà Ottocento una famiglia della Sila matura la decisione di vendere entrambi i figli. Ogni attività patrimoniale della famiglia, risparmi, terre e bestiame, è già stata impegnata. Carluccio di 10 anni e Stefanella di 9 anni rappresentano l'ultima risorsa per far fronte a un anno economicamente difficile. La decisione di vendere i bambini spetta al padre, che informa la moglie soltanto la sera prima dell'arrivo del conduttore, che porterà i due bambini a Parigi, via mare. Lo fanno tutti. Pensa a Salvatore, il guardaboschi, che ha pure stipendio e legnaia. Ha ceduto l'anno scorso la sua Gabriella, che era gracile come un giunco. Pensa a Valentina, della piazza, tanti ne ha fatti e tanti ne ha venduti. Il sindaco mette il bollo e il curato ci dà la benedizione. Pratica tristissima questa della tratta dei bambini. Nel 1869, in seguito alla diffusione di una relazione della Società Italiana di Beneficenza a Parigi, che denunciava le precarie condizioni di vita dei bambini italiani nella capitale francese, il governo italiano presentò al Senato un progetto di legge che proibiva la tratta e la considerava un reato perseguibile anche con la reclusione. In realtà occorrerà attendere 1886, quando venne approvato un primo provvedimento a tutela del lavoro minorile. Si stabilì in 9 anni il limite minimo di ammissione al lavoro e in 15 anni il limite minimo per i lavori considerati pericolosi. Era solo il primo passo, largamente insufficiente però ad arginare il fenomeno. Con l'avvento del XIX secolo cambiò il clima internazionale e il dibattito sul lavoro minorile subì un'accelerazione significativa. Anche le convenzioni di Washington del 1919, di Genova del 1920 e di Ginevra del 1921, 32 e 37 si occuparono di stabilire il limite di ammissione al lavoro. Per adeguare la legislazione italiana alle disposizioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il regime fascista approvò nel 1934 una legge che vietava di assumere minori di 14 anni nell'industria e nel commercio. Nel secondo dopoguerra si moltiplicarono le inchieste che portarono nel 1961 e nel 67 alla modifica della legge del 1934. Con l'inizio degli anni 70, il legislatore considerò risolto il problema del lavoro minorile. A partire dal 1971, i censimenti della popolazione cessarono del tutto di investigare il fenomeno. Abbiamo in linea il professor Gianni Toniolo, docente di storia economica alla Duke University, alla LUIS, uno dei coautori del volume. Buonasera, professor Toniolo, e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Allora, il problema del lavoro minorile, lo abbiamo appena ricordato, accompagna per oltre 100 anni la storia di questo paese, un percorso politico, sociale, legislativo molto faticoso, molto complesso, che si accompagna all'altra grande questione, quella dell'istruzione, professore. Sì, il lavoro minorile è un problema enorme nelle società più povere. Ricordiamo che l'Italia, al momento dell'unificazione, era una società, un'area di estrema povertà, diciamo che aveva un reddito per abitante probabilmente non dissimile da quello medio dell'Africa di oggi. E l'abbattimento però dell'incidenza del lavoro minorile è stato uno dei grandi successi del nostro processo di sviluppo negli ultimi 150 anni. È stato uno dei grandi successi perché non è sempre stato così. In Inghilterra, per esempio, il processo di industrializzazione, che era iniziato alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, si era accompagnato ad un aumento dell'impiego dei bambini, particolarmente utili nell'industria tessile, per esempio, dove addirittura venivano fatti dei telai particolarmente piccoli o delle bacinelle, dei filatoi vicini al pavimento per consentire ai bambini, con le loro manine così piccole e quindi molto abili a fare piccoli nodi, di poter lavorare, e lavoravano 7, 8, 10, 12 ore al giorno a partire da un'età molto, molto, molto piccola. In Italia c'erano circa forse l'80% dei maschi che in un modo o nell'altro andavano a lavorare in età tra i 9 e i 14 anni. Quindi anche in Italia nel momento dell'unificazione il fenomeno era gravissimo, come in tutte le economie sottosviluppate e povere. Perché si mandano i bambini a lavorare? Beh, la storia di Guerzoni che è stata raccontata, che è stata letta prima, lo dice chiaramente: non c'è più nulla da mangiare, l'ultima risorsa è quella di vendere i bambini. Anche senza arrivare a questo estremo, mandare i bambini a lavorare nei campi o nella vicina fabbrica è un modo per ottenere un po' di reddito. Naturalmente mandare i bambini a lavorare creava un circolo vizioso, perché i bambini guadagnavano qualcosa ma venivano condannati a guadagnare poco per il resto della loro vita, perché non potevano andare a studiare, probabilmente ne soffriva anche il loro sviluppo fisico e il loro sviluppo psichico, quindi si creava un capitale umano, per usare questa brutta parola, estremamente, estremamente povero, estremamente modesto, che quindi limitava anche il reddito futuro della stessa famiglia. Ecco, professore, ci parli un po' anche, secondo lei, quali sono gli elementi di maggiore novità che emergono da questo volume, che è un volume ponderoso, lo ricordiamo, costruito su 20.000 bilanci familiari, e quindi offre uno spaccato anche delle diseguaglianze del nostro paese nei 150 anni di storia unitaria. Guardi, questa è una ricerca per molti aspetti unica, non solo in Italia ma anche nel panorama internazionale. Della storia economica italiana noi sappiamo parecchio per quanto riguarda la produzione, lo sviluppo, la crescita del prodotto interno lordo, gli investimenti, i settori industriali, i settori produttivi. Sapevamo molto meno per quanto riguarda così gli effetti di questo sviluppo sul benessere delle popolazioni, sulla vita quotidiana degli italiani. E questa ha riempito una lacuna enorme, nel senso che questa ricerca per la prima volta si basa su una ricostruzione quantitativa enorme da un lato, e d'altro lato gestita in modo rigoroso dal punto di vista statistico, econometrico ed economico. Quindi ci dà una descrizione del nostro paese dal punto di vista degli effetti dello sviluppo, se vogliamo, sul benessere delle popolazioni, che prima mancava, e ce la dà in modo tale che oggi abbiamo delle informazioni sistematiche e lungo un arco di 150 anni che mancano per molti altri paesi. Quindi è un risultato, secondo me, straordinario. Ecco, grandi progressi compiuti nel nostro paese, grandi problemi che tuttora rimangono e grandi sfide che lo stesso volume sottolinea con dovizia di particolari. Tra queste, quella tuttora irrisolta, il paese nasce unitario con la questione meridionale, a oggi, a 150 anni, la questione meridionale addirittura si sta aggravando. E dunque, professore, anche il discorso che abbiamo appena fatto sull'istruzione, sul lavoro minorile, ci conduce nuovamente a riflettere su quello che occorre fare per superare questo dualismo ormai cronico del nostro paese. Sì, attenzione, il Mezzogiorno insieme col resto dell'Italia ha compiuto dei progressi straordinari dal 1861 a oggi. Certo. Quindi il Mezzogiorno è stato trasformato insieme col resto del paese. Quello che è successo purtroppo è che il Mezzogiorno non è cresciuto più rapidamente del centro, in modo da chiudere un gap di benessere, di produzione, che probabilmente esisteva fin dall'unità, che poi si è un po' aggravato e che poi è rimasto fasi alterne, un po' ravvicinandosi, un po' allargandosi fino al giorno d'oggi. Quindi è un problema cronico che è rimasto, pur essendo oggi il Mezzogiorno un'area tutto sommato sviluppata dell'Europa moderna. E questo problema è stato chiamato questione meridionale fin dagli anni della fine dell'Ottocento. Le ragioni sono state studiate da generazioni di studiosi, diciamo che ancora oggi manca il consenso su quali siano state, perfino su quale è stata la dimensione di questa divisione da nord e sud, e qui vengono documentate alcune cose in modo molto preciso, la divisione sotto l'aspetto, incluso l'aspetto del lavoro minorile, ma per quanto riguarda l'istruzione, per quanto riguarda la stessa speranza di vita per un lungo periodo di tempo, per quanto riguarda la mortalità infantile, la stessa nutrizione, quindi la stessa altezza, che è un indicatore molto importante del benessere delle popolazioni. Quindi noi qui abbiamo una documentazione che, al di là delle polemiche e delle discussioni che sono state vivissime per più di cento anni, oggi è, dal punto di vista almeno quantitativo, dal punto di vista almeno dei fatti, abbastanza incontrovertibile. Bentornati alla Storia e la Memoria per la seconda parte del nostro appuntamento settimanale con la storia. Ascoltiamo adesso il documentario che Radio 24 ha realizzato in collaborazione con History Channel, dedicato ai motivi che hanno permesso alla società occidentale di dominare il mondo. Perché l'Occidente dal 1500 in poi ha prevalso sulle altre civiltà? Indagheremo la chiave di questo successo oggi, che ne osserviamo il declino con lo spostamento dell'asse di prestigio e potere mondiale sempre più a est. L'Occidente, assediato dalla crisi economica e dai problemi ambientali, si sta rendendo conto che la costante crescita dell'Oriente rappresenta una sfida alla sua supremazia politica e militare. La Cina ne è la prova tangibile. La sua rivoluzione industriale, la più vasta e veloce della storia, è avvenuta in soli 30 anni. È uno stato monopartitico molto sicuro di sé. Una cultura che riafferma se stessa sullo scenario internazionale. L'ascesa della Cina sembra l'evento politico centrale del XXI secolo. È come se si tornasse indietro di 600 anni, all'epoca in cui la Cina primeggiava in tutto. 500 anni fa si verificò un evento davvero straordinario. Alcuni piccoli regni dell'Europa occidentale, impoveriti e dilaniati dalle guerre, iniziarono un'espansione che durò 5 secoli. Nel 1500 l'Europa occidentale si estende sul 10% delle terre emerse e ospita il 16% della popolazione mondiale. Nel 1913 11 imperi occidentali controllano più di metà del territorio e della popolazione globale e generano oltre l'80% del reddito economico mondiale. Nel 1980 la ricchezza di un americano medio supera di 70 volte quella di un cinese medio. Spesso si pensa sia stata la tecnologia occidentale a far prevalere l'Occidente, in particolare quella tecnologia che ha generato la rivoluzione industriale. Ma non è così. Ciò che l'Occidente possedeva e che agli altri mancava era la competizione, sia politica che economica. Questo fattore, associato alla nascita di nazioni-stato e all'ascesa del capitalismo, avrebbe dato vita a una straordinaria inversione di tendenza. La più grande rivelazione della storia. Come gli europei sono riusciti a prevalere sui cinesi nel dominio del mondo. Che cosa vede chi intraprende un viaggio nel 1420, risalendo il Tamigi e lo Yangtze?